La lettera, l'appello, il suo comunicato nasce dall'esigenza di far conoscere a più persone possibile una vicenda giudiziaria che ha avuto un epilogo, o ha quasi avuto un epilogo, recentemente in Corte di Cassazione. Si tratta di del processo Scriptamanent, che si è celebrato a Torino e che è giunto fino appunto alla Cassazione. In Cassazione il reato di strage, che era stato contestato e per cui alcuni imputati avevano riportato condanna, una condanna particolarmente elevata e severa, a circa 20 anni di reclusione per un fatto che non aveva provocato neanche un ferito, è stato riqualificato dalla Cassazione in strage politica ai sensi dell'articolo 285 del Codice Penale. Ci tengo a precisare, ed è questo il motivo per cui abbiamo ritenuto di far conoscere questa vicenda, che questo articolo, questo reato, non è stato contestato nella storia italiana neanche per le stragi più efferate, come per esempio Capaci, Via D'Amelio, ed è stato invece per la prima volta applicato a una vicenda, a un fatto che, come dicevo prima, non ha apportato neanche una lesione a nessuno, non ci sono stati feriti. La pena prevista per questo reato, e questa è la cosa più rilevante, l'unica pena possibile è l'ergastolo, tra l'altro ergastolo ostativo, senza alcuna possibilità di ottenere neanche alla fine dei benefici, quindi un ergastolo sostanzialmente infinito. Riteniamo che questo sia particolarmente allarmante, che sia una retrocessione dei principi di civiltà giuridica, e crediamo che questo vada segnalato, perché è qui che si vede una forma di accanimento verso quello che più viene punito, più che il fatto, viene punito l'autore, la tipologia di autore. Oltre al caso che hai citato, nell'appello ne segnalate anche altri, sottolineate come spesso gli inquirenti vedano un'organizzazione gerarchica in un movimento che per definizione non è gerarchico. Allora, noi abbiamo assistito e assistiamo ormai da anni al tentativo di collocare in una dimensione associativa, cioè nell'ambito di reati associativi, fenomeni e movimenti che sostanzialmente sfuggono, proprio per i loro principi, per il loro modo di essere, a forme di gerarchizzazione o di rigida suddivisione di ruoli. E infatti molte volte poi in ambito giudiziario queste accuse cadono. Quello che noi notiamo è che la repressione si verifica per la maggior parte con misure cautelari, custodie cautelari in carcere, cioè misure cautelari particolarmente gravose che arrivano all'inizio del procedimento e che quindi connotano la prima fase. Poi dopo anni magari si arriva a delle sentenze di totale assoluzione, ma intanto le persone si sono fatte per fatti modesti, modestissimi o addirittura nulla, mesi e mesi di custodia cautelare in carcere, in regimi speciali peraltro, perché i detenuti considerati politici vengono poi ristretti in delle carceri, in delle sezioni di alta sorveglianza, quindi con tutta una serie di ulteriori limitazioni alla loro detenzione rispetto ai detenuti comuni. Voi definite questa, diciamo, una deriva giustizialista che ci dovrebbe preoccupare tutti. Ogni qualvolta un provvedimento dell'autorità giudiziaria, un'ordinanza di custodia cautelare, ma come anche una sentenza, si ponga quale obiettivo? Quello di punire più che il fatto, l'autore del fatto, per quello che l'autore rappresenta a livello politico e ideologico, ecco, credo che quella sia una deriva che deve preoccupare tutti, a prescindere dalle nostre idee e dalle nostre appartenenze, perché si scivola verso un diritto penale che è lontano da quello che è lo schema previsto dalla nostra Costituzione e dal nostro Codice Penale, cioè uno schema che guarda più al soggetto come nemico dello Stato che al fatto che quel soggetto si ritiene abbia compiuto.